Le strade della comunicazione. La gestione dell'arte e del suo mercato, un nuovo affascinante scenario che richiede però un'adeguata formazione per nuovi professionisti, manager, critici, galleristi, direttori di museo, che siano in grado di gestire il rapporto tra arte e mercato in tutte le sue fasi, ma anche altre figure. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Esperto di community e viral marketing a base culturale. Una figura capace di applicare le nuove tecniche di marketing non convenzionale al campo della cultura e dell'arte. Originalità, freschezza e creatività per veicolare il proprio messaggio o il brand aziendale attraverso gli strumenti più innovativi e giovani dell'advertising, quelli che passano per l'intrattenimento, il passaparola e il social network. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati dell'Università Yulm. www.yulm.it